And now, back to the story. E adesso torniamo alla storia. And a recap of the conversation with Dr. Vannini. Al lavoro. Dottor Vannini, buonasera. Buonasera, signor Conti. Le presento la signorina Jenkins della Top Qual. E questo è il dottor Vannini dell'antica cantina. Buonasera. Piacere. Piacere mio. Si accomodi. Grazie. Sono molto contento di conoscerla. Ecco, questo è il mio biglietto da visita. Grazie. Abbiamo molti progetti per la Top Qual. I'm sorry? Oh, mi scusi, lei non parla italiano. Solo un po'. Il signor Conti può tradurre, allora. Certo, posso tradurre. Mr. Vannini says that they have many plans for Top Qual. Noi siamo una cooperativa di produttori e produciamo vino di ottima qualità a prezzi ragionevoli. We are a cooperative of producers and produce different kinds of high quality wine at reasonable prices. E esportiamo il nostro vino in tutto il mondo. And we export our wine all over the world. Io mi occupo del mercato francese, tedesco e spagnolo, e speriamo anche inglese. I deal with the French, German and Spanish market, and hopefully also with the English one. Ma parliamo di cifre. But let's talk about figures.